A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Before we can also leave to go and wash the kitchen, because after washing the kitchen also, we will have to go to B section, our leader section, right? That's where nobody will go. Other political prisoners were not allowed to go into that section, very strict. Il sole caldo dell'estate sudafricana oggi ha concesso una tregua, come se anche lui avesse deciso di prendersi una pausa per fermarsi ad ascoltare la storia che Ichi Malengwe sta narrando ai visitatori appena sbarcati a Robben Island. Perché se tutti sanno che cosa è stata Robben Island per il Sudafrica, il carcere per antonomasia, quello in cui Nelson Mandela scontò 18 dei suoi 27 anni di prigionia, immatricolato col tragico e celebre numero 466/64, praticamente nessuno sa che qui, sotto lo sguardo dei carcerieri bianchi che osservavano dall'alto delle torrette e il latrato dei cani di guardia, si giocava anche a calcio. Di più, proprio il calcio fu la scuola politica attraverso la quale si sono formati i quadri dirigenti del Sudafrica multietnico e democratico. Malengwe è stato prigioniero a Robben Island. Decise di lottare con le sue povere armi, il desiderio di rovesciare il regime dell'apartheid e le proprie mani contro l'ingiustizia e il sopruso dei bianchi sui neri. Troppo per il potere razzista di Pretoria, che lo spedì qui, su quest'isola a circa 12 km al largo di Città del Capo, lingua di terra fra due oceani spazzata continuamente dai venti. Qui Malengwe fu addetto alle cucine durante gli anni del carcere e ora lavora come guida turistica, accompagnando i visitatori che ogni giorno sbarcano dalla costa alla scoperta del dolore e degli orrori di Robben Island, ma anche della speranza e dei miracoli che queste celle e le cave di pietra dell'isola, scavate dai prigionieri costretti ai lavori forzati, hanno saputo restituire alla Rainbow Nation. Come la Makana Football Association, la lega calcistica che i prigionieri riuscirono a creare e gestire tra soprusi, torture e lavori forzati. Ichi ci guida verso quel campo spelacchiato che fu il teatro di questo piccolo grande miracolo. Qui dietro a me e poi di fronte c'è quello che era il nostro campo sportivo, dove praticavamo gli sport, giocavamo a calcio, rugby e altre discipline. Ricordate che nel 2007 il presidente della FIFA, Sepp Blatter, ha visitato questo luogo, questo campo, e su di noi, che riuscimmo a giocare a calcio a Robben Island, è stato fatto anche un film documentario. Potevamo giocare solo il sabato. Ci ritrovavamo tutti qui per giocare a calcio, tutti noi prigionieri, tranne quelli della sezione B, quelli in isolamento. Gli unici cui non era permesso uscire nell'area all'aperto del carcere e a cui era vietato partecipare alle iniziative comuni. Non solo una partitella, di più. I prigionieri crearono una lega con tre serie e diverse squadre per ogni divisione. La prima sfida nel dicembre 1963, poi il via ai campionati. Tutti provavano a dar calci al pallone, ognuno chiaramente secondo le proprie capacità. Avevamo una squadra di calcio nella sezione F. Questa è la sezione G, che aveva la sua squadra, anche la sezione, e aveva il suo team. Nella sezione D c'erano i prigionieri provenienti dalla Namibia, ma onestamente loro a calcio non ci sapevano fare granché. Anche perché erano i più anziani. Non erano molto bravi, ma l'importante per noi era poter coinvolgere tutti e poterci riunire tutti insieme. Poi qualcuno della sezione A si aggiungeva per completare le squadre e alla fine riuscivamo sempre a mettere insieme 5 o 6 team per giocare partite e campionato. Perché il nome Makana? Anche quello era un segno della voglia di libertà e rivolta contro l'apartheid. La Makana Football Association venne creata intorno alla metà degli anni 60, prima che io fossi arrestato e imprigionato qui a Robben Island. Da cosa deriva il nome? Da quello di un antico e fiero condottiero del popolo Xhosa, che era stato imprigionato qui a Robben Island ai tempi della colonizzazione inglese all'inizio dell'Ottocento. Makana tentò la fuga dall'isola, ma morì inghiottito dal mare in tempesta. In memoria di questo combattente glorioso e indomito, I prigionieri che fondarono la Lega Calcistica la chiamarono appunto Makana. Non solo calcio, a Robben Island i prigionieri riuscirono a dar vita anche a una sorta di giochi olimpici. Ichi Malengue ci conduce nella sala adibita dai detenuti alle premiazioni. Every December time. Ogni dicembre avevamo quelli che chiamavamo i nostri giochi olimpici e i vincitori venivano premiati in quella sala, dove svolgevamo anche altre attività ricreative, come rappresentazioni o danze tipiche. Poi, una volta all'anno, in quell'occasione, ricevevamo un piccolo pacco dalle autorità carcerarie. Dentro c'erano dolci o biscotti o caramelle. Era un pacchetto incartato ed era quello il nostro piccolo grande tesoro. L'unico che avremmo ricevuto fino al Natale successivo. Le rive di Robben Island si allontanano, ma la memoria di cosa fu quel carcere, oggi patrimonio dell'umanità per volere dell'UNESCO, resta viva. In un bar di Milano incontriamo Anthony Suze. Che bomber sarebbe stato Tony se a 21 anni non fosse stato arrestato per la sua attività contro il regime segregazionista. Uscì da Robben Island 15 anni dopo. Oggi è un uomo libero, a capo di un'impresa commerciale a Pretoria, appassionato di calcio italiano e tifoso dell'Inter. Suze fu fra i fondatori della Makana e tra i suoi giocatori più forti. Così ci spiega l'importanza della Lega Calcistica fondata dai prigionieri. La fondazione della Makana Football Association fu importante per noi prigionieri politici sotto molti aspetti. Prima di tutto ci diede quello di cui avevamo più bisogno, perché gestire la Lega, con i suoi casi ordinari e le sue necessità, ci dava l'impressione di vivere una vita normale, lontano dalla quotidianità del carcere. Ma più di tutto fu una sorta di allenamento per molti che poi sarebbero stati chiamati a ruoli chiave nel paese una volta usciti da Robben Island. La Makana diede a tutti noi fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Per questo fu un vero e proprio training in vista di quella che sarebbe stata la vita fuori da Robben Island. Tante partite, tanti gol, vero Tony? Ma quali sono state le gare indimenticabili giocate sul campo di Robben Island? Le labbra di Suze si distendono in un sorriso, la mente scava nei ricordi. Ma in verità non c'è solo uno, ma sono almeno due i match per me indimenticabili. Due partite che ridisegnarono la storia del calcio a Robben Island. Il primo è quello nel quale la mia squadra, il Manong, che era la più forte di tutta la Lega, venne sconfitta a sorpresa dalla squadra più debole, 3-1. Fu un'esperienza davvero dolorosa. Il secondo match riguarda la squadra degli Atlantic Raiders, di cui facevo parte e che era formata dai migliori giocatori di Robben Island, che venne clamorosamente sconfitta da un team fatto da giocatori scarsi e quasi presi per caso a bordo campo. Questi ragazzi fecero un gol, noi poi le tentammo tutte per rimontare, senza successo. Fu un brutto colpo per il nostro orgoglio. Non riuscimmo ad accettarlo, protestammo perché il gol era irregolare, facemmo un ricorso ufficiale. La questione andò avanti per oltre 6 mesi, durante i quali non si giocò a calcio a Robben Island. L'unico modo per uscirne fuori sarebbe stato avere 2 campi e far giocare da un lato quelli favorevoli ai Raiders, dall'altro i contrari, oppure bandirci per sempre dalla Lega. Ma non potevamo farlo, perché noi eravamo i più forti e in fondo il calcio nell'isola eravamo noi. Robben Island vuol dire Nelson Mandela. Ti è mai capitato di incontrarlo durante gli anni della vostra prigionia? Non ci era mai permesso di vedere Nelson Mandela e gli altri che chiamavamo leader, come Sisulu. Non potevamo mai incontrarli in modo ufficiale. Se per caso capitava, non c'era comunque permesso di parlargli. Ma l'episodio che ricordo in modo più vivo ed emozionante fu quel giorno che dovetti essere trasferito in ospedale e stavo camminando nei corridoi con un gruppo di altri prigionieri. All'improvviso ci comparve davanti Mandela, che era all'ingresso del blocco amministrativo e stava tornando nella sua cella di isolamento. Fummo tutti sorpresi e felici. Fu un momento indescrivibile perché non eravamo mai stati faccia a faccia con Mandela. Fu il primo e ultimo momento in cui mi trovai faccia a faccia con lui in prigione. Ma Mandela aveva comunque un ruolo prominente e influente sulla vita dei prigionieri a Robben Island. Ogni volta che c'erano tensioni politiche tra i diversi partiti presenti tra i prigionieri, Mandela veniva consultato su come risolvere la controversia. Non era fisicamente presente tra noi, ma spiritualmente ed emotivamente guardavamo sempre a lui come punto di riferimento. Non era fisicamente presente tra loro, ma spiritualmente e emotivamente abbiamo sempre lui. La Coppa del Mondo sta per arrivare in Sudafrica. Tony ci confessa di fare il tifo per gli azzurri, ma di vedere il Brasile come favorito. Ma c'è un legame, un collegamento tra il calcio giocato a Robben Island e quello tutto luci e show business che sbarcherà con il mondiale? World Cup means a lot to me as a South African. Questa Coppa del Mondo vuol dire molto per me come sudafricano sotto molti aspetti. Prima di tutto sotto il profilo economico, il paese ne beneficerà enormemente. Ci resteranno stadi bellissimi e molte infrastrutture che sono state realizzate per l'occasione. Molti posti di lavoro sono temporanei, è vero, ma è vero anche che molte persone che non avevano mai lavorato prima stavolta hanno avuto un'opportunità di farlo e la cosa avrà un impatto prezioso sulla loro esistenza. È chiaro che l'impatto positivo sarà soprattutto per chi è coinvolto nell'evento, e non potrà esserlo per tutti, ma consideriamo anche l'eredità spirituale che i mondiali ci lasceranno, un'eredità positiva per tutta la nazione. Ci sentiremo tutti un po' più vicini, anzi, già ci siamo sentiti così, quando abbiamo dovuto fronteggiare lo scetticismo generale, e ancora lo stiamo facendo, basti vedere tutte le polemiche sulla sicurezza, ma dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo. Tante partite indimenticabili anche tra i ricordi di Marcus Solomon. Era il 1964 quando Marcus venne arrestato e trasferito a Robben Island. Motivazioni, cospirazione. Solomon era un prigioniero politico. Fu uno dei fondatori della Makana Football Association. Uscì dal carcere nel 1974. Oggi gestisce un centro di sostegno all'infanzia e a giovani da lui stesso fondato nell'area di Città del Capo. Basta fargli uno squillo sul cellulare per farlo tornare con la memoria a quel campo, a quelle partite. Yes, there were quite a few that I can remember well. Ne ricordo tante e ricordo anche tantissimi compagni di prigionia che giocavano davvero bene. Me ne ricordo uno davvero divertente. Conosci un certo Maradona, quello che segnò un gol con la mano di Dio contro l'Inghilterra ai Mondiali di Messico 86? Beh, ho visto qualcosa di simile in prigione a Robben Island. C'era un giocatore molto bravo, si chiamava Napoleone, e fece un gol allo stesso modo, ma l'arbitro non se ne accorse. Gli avversari se ne accorsero, il pubblico se ne accorse, ma non l'arbitro, che convalidò il gol. Ti lascio immaginare le polemiche e la rabbia degli avversari. Me ne ricordo tante di partite, ma davvero questa mi è ben impressa nella memoria. Stessi ricordi, speranze diverse quelle di Tony Souza e Marcus Solomon. Per Marcus i mondiali in arrivo raccolgono solo una minima parte dell'eredità morale del football giocato a Robben Island. Sì, nel senso che lo sport è un'attività umana molto importante. In questo senso il legame, l'eredità che ci unisce tutti arriva da tutto il mondo. La gente deve giocare a calcio, fare sport, soprattutto i giovani, ragazze, ragazzi. Ma per altri aspetti no, non c'è legame tra il nostro calcio e la Coppa del Mondo, perché il mondiale sarà per i pochi. A Robben Island noi lottammo per ottenere il diritto di giocare a calcio, per vedere riconosciuto un diritto di tutti. La Coppa del Mondo che sta per arrivare sarà invece per pochi, così come pochi sono coloro che ne hanno beneficiato. E in questo senso la continuità con la nostra esperienza si è rotta. Milioni di bambini e giovani in Sudafrica non hanno possibilità di fare sport, così come la maggioranza di loro non potrà andare allo stadio perché i biglietti costano troppo e quindi i milioni di giovani delle classi sociali più basse non potranno vedere le partite dal vivo. The stadiums are not always where the majority of the working people are living. Per A Bordo Campo, Sudafrica 2010, nel cuore del mondiale di oggi, è tutto. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo l'appuntamento per sabato prossimo alle 13.15, ma domani domenica alle 14.30 l'abituale appuntamento con A Bordo Campo e le sue piccole grandi storie dello sport. Un saluto da Dario Ricci.